Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, le 8:19 minuti in questo venerdì. Questo venerdì, questo giorno di sciopero, devo dire. Intanto equivale, lo sai che equivale. Il venerdì equivale a scioperi. Quindi è... Non sempre, ma a volte. Talvolta. Quasi sempre. Perché i sindacatini così, tac, fanno aderire allo sciopero per il fine settimana molti più che i loro iscritti. Quindi è una vecchia tecnica sindacale. Fino a che qualcuno che ci aveva promesso 2 anni fa, caro governo Renzi, ci avevi promesso la riforma della legge sul diritto di sciopero nei trasporti pubblici, e poi non si è visto niente. Allora, oggi un altro santo, anzi una santa, un po' animalesca, come abbiamo visto ieri. Ieri c'era un leopardo, San Leopardo, oggi è Sant'Orsola. Sant'Orsola, che c'ha una leggenda dietro, perché era la figlia di un re bretone, doveva andare in sposa a un altro re con l'idea di farlo cristiano, se non che per strada incontra gli unni, cioè a 10 compagne vergini, gli unni la passano a fil di spada. Nella trasposizione le 10 compagne più Orsola, 11, diventano la strage delle 11.000 vergini. C'era un tentativo un po' di amplificare, come vedi Renzi non si è inventato nulla nell'amplificazione pubblica. Rapporto per mille, per così dire. Altre cose, sì, ci sono però anche tanti santi divertenti oggi, perché c'è per esempio San Bertoldo di Parma, che mi sta molto simpatico perché è una storia padana, figlio di un calzolaio laico, non ha mai preso i voti, però era così per bene che alla fine l'hanno fatto santo, oggi sarebbe sindaco secondo me. San Zotico. Oggi è anche San Zotico. Un santo, un po' così. Beh sì, perché evidentemente... Poco educato. È un po' poco educato, un santo leghista, per così dire. No, ma dai che tra poco abbiamo Salvini. Non dico apposta, ma guarda che a lui andrebbe bene che ci sia un San Zotico. Non vede l'ora. Che dice pane, viene via. Dopodiché, oggi nasceva la prima lampadina nel 1879. Spenta o accesa? Nel senso che Thomas Edison per la prima volta riusciva a far stare accesa per un po' la lampadina. E nel 1860, udite cari ascoltatori meridionali, oggi votavate il plebiscito in tutto il sud e sceglievate la annessione al regno di Sardegna, noi torinesi. Eccoci. E siamo là, e purtroppo questa scelta. Tra l'altro, cari ascoltatori, oggi Oscar, ci sono tante notizie che ci hanno colpito. Io su questa della donna, visto che ieri abbiamo parlato di i medici che talvolta sbagliano, di questo libro, Reato di cura, avevamo il professor Bagnoli che ha raccontato anche sulla sua vicenda da oncologo. Ma ha molto colpito il modo in cui i giornali affrontano questo dibattito di questa donna morta a Catania di parto. Sì. Cioè, sui giornali sembra che il problema sia stabilire attraverso i giornali se la presenza di questo medico obiettore sia stata la causa della morte, o se la causa della morte sia stata un'infezione. Cioè, per questo ci sarà un processo, ci saranno dei periti. Il giornalismo di cronaca, quando ci sono queste cose, si anticipa sempre il processo. No, perché ad esempio, guarda il titolo di Avvenire, no? Prima pagina, caccia all'obiettore, la tragedia di Catania sfruttata per propaganda. A mio modo di vedere, la vera domanda da fare è normale un ospedale, in questo caso a Catania, in cui per stessa ammissione dei dirigenti dell'ospedale sono tutti obiettori? Risposta: in un paese normale, in un paese in cui il diritto all'aborto c'è, due punti, no! Ecco, lo urlo, perché non è possibile che una legge dello Stato, la 194, e il diritto all'obiezione, che capisco, non vengano contemperati però in un'offerta organizzazione del servizio pubblico per il quale in ogni ospedale chi lavora in ostetricia deve avere un rapporto equilibrato, perché equilibrato significa anche che bisogna prevedere i turni, capite? Esatto. Equilibrato tra chi fa obiezione e chi no. E questa roba, se non si fa così, che cosa invece implica? Che in un numero crescente di regioni italiane, comprese il nord e compresa questa Lombardia, quindi non è questione di nord e sud, abbiano una denegazione sistematica del diritto delle cittadine e dei cittadini ad avere il rispetto della legge. Anche perché poi gli ascoltatori ovviamente ci scrivono, passano dall'altra parte a dire: per me non è neanche normale che esistano obiettori nel pubblico. No, non, cioè, voglio dire, io su questo, se c'è, però una, io, se c'è una legge, ci sono paesi però che non la consentono. Va bene, ma comunque, certo, però se siamo un paese in cui si deve rispettare la legge 194 di diritto all'aborto, c'è anche la legge che consente ai medici di essere obiettori di coscienza, esatto, quindi siano rispettate entrambe le leggi. Ma invece tutti a chiedersi se la causa della morte sia stata il fatto che questo medico era obiettore. Questo lo accerterà l'indagine. E questo lo accerteranno. Chiediamoci se è normale che ci siano solo obiettori in un ospedale. Sta di fatto che il solo sollevare questa questione, che stiamo sollevando Alessandro e io, ottiene la risposta preventiva dell'avvenire, come se si trattasse di un pregiudizio contro i cattolici. Non è vero, e per favore sgombriamo il campo da questa obiezione preventiva. Sì. È una obiezione su come si organizza l'offerta dei servizi sanitari. Esatto. Comunque chiamateci all'800 24 00 24. Prima però dobbiamo parlare un po' di politica, cioè voi chiamateci su questo argomento, perché abbiamo ospite Matteo Salvini. Buongiorno, che è con noi. Buongiorno Salvini. Eccoci Salvini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, la notizia a destra magari non l'appassiona, ma secondo me un po' dovrebbe appassionarla, è questa ipotesi di scissione. È vero che all'interno non della Lega ma di Forza Italia, ma si dice che il gruppo storico di Forza Italia sia pronto a unirsi a lei, fare una sorta di Lega Italia e lasciare Forza Italia. Le interessa, insomma, l'appassiona, immagino, questa possibilità. Ma chi è che lo dice? I giornali. Ai giornali, ma io torno all'obiezione di coscienza. Ci hanno raccontato per due giorni che quella povera ragazza è morta per colpa di un'eventuale obiezione di coscienza, cosa che è stata smentita non solo dai sanitari ma anche dai giudici. Quindi abbiamo parlato per due giorni del nulla. Poi può essere interessante il dibattito filosofico che stavate facendo su dove si ferma il diritto del lavoratore, dove comincia il diritto dell'utente, però non tiriamo di mezzo una ragazza con due gemellini morti. Sì, questa non è informazione, questa è pattumiera, questa è una schifezza. Quindi si dice, lo scrivono i giornali, lo dicono le radio, ahimè lo dico da giornalista, molto spesso e volentieri i giornali e radio ne dicono di ogni. Quindi Forza Italia valuterà cosa fare, non sono qua a campare sulle scelte o le divisioni altrui. Il primo messaggio che mi è arrivato questa mattina sull'SMS riguarda la buona scuola. Dall'ennesima mamma di ragazzo disabile che ormai ha più di un mese dall'inizio della scuola non ha il diritto all'istruzione e all'assistenza garantito. Quindi al di là delle obiezioni di coscienza vere o presunte, qua ci sono ancora migliaia di cattedre scoperte a un mese dall'inizio della scuola. Ditemi voi se è da paese civile. Quindi lei ci vuole occuparsi di queste cose concrete. No, però questa Italia, frase... Sicuramente c'è qualcuno in Forza Italia che è nostalgico dell'inciucio con Renzi, che a livello di Europa, siccome leggevo che adesso Renzi è arrabbiato con l'Europa da qualche settimana dopo che ha votato tutto quello che l'Europa gli ha proposto per due anni e mezzo, c'è qualcuno in Forza Italia che dice no, questa Europa non si tocca, l'euro non si tocca, viva la Commissione, viva la Merkel, viva Juncker, viva l'austerità. E con questa gente ovviamente io non avrò molto a che fare, quindi se scelgono due strade diverse sanno quali sono le proposte della Lega. Ma e quella frase invece, il leader sono io, lei l'ha detta? Se uno mi domanda oggi chi sarebbe il leader, non lo decido io, non lo decide Milan, non lo decide Giannino, lo deciderebbero gli elettori che in questo momento premiano la Lega come primo movimento politico del centrodestra. Quindi rifiutandomi di stare in ballo con primarie sì, primarie no, primarie forse, votano i biondi, votano i castani, votano quelli con gli occhi azzurri, la forma secondo me non sempre è sostanza. Sentivo anche il primo titolo del vostro GR, io non avrei mai fatto ricorso sul quesito del referendum, su quanti sono i quesiti, su come sono posti. Parliamo della sostanza. Io voto no perché la Costituzione è riformata in maniera orribile, punto, al di là della forma del quesito e dei modi. Quindi non, il leader, c'è qualcuno all'ascolto in questo momento che è appassionato in macchina, in coda, e si sta domandando ma chi sarà il leader del centrodestra? Io ritengo che la Lega abbia una squadra, Luca Zaia, Roberto Maroni, abbiamo 300 sindaci in giro per l'Italia, che sia pronta a governare domani mattina meglio di Renzi. Chi sarà il leader poi è l'ultimo dei miei problemi. Senta Salvini, ma mettiamo che vinca no il 4 di dicembre, l'indomani secondo lei il problema che bisogna affrontare politicamente, cioè lei cosa direbbe o spiegherebbe che il Quirinale facesse? Cioè la mia domanda concreta, voi sareste anche disposti a votarlo un governo di transizione pur di andare alle elezioni non troppo lontano solo cambiando la legge elettorale, oppure stareste a guardare? No, ma per capire. No, ma la domanda è giusta. Il prerequisito è che vinca il no. Ah, certo, questo sì. Per avere la speranza di cambiarla in meglio la Costituzione e di non tornare indietro di X anni, gli italiani dovrebbero votare no, stando a tutti i sondaggi in maniera incredibile. Il no sarebbe avanti, nonostante il lavaggio del cervello mediatico, soprattutto sulle reti Rai dalla mattina alla sera, senza precedenti, però evidentemente la gente non è comprabile solo con gli spot televisivi o pubblicitari. Ma se vincesse? Se vince no, per quanto mi riguarda bisogna votare il prima possibile, perché il quarto presidente del Consiglio non eletto da nessuno, non passato da elezioni, sarebbe inaccettabile. Renzi è riuscito a mettere insieme un meccanismo infernale per cui in questo momento non si sa neanche qual è la legge elettorale, perché lui ha impegnato il Parlamento italiano per 2 anni per cambiare la legge elettorale a colpi di fiducia dicendo è la più bella del mondo, ma adesso ha cambiato idea, adesso si può cambiare perché si è accorto che perde, che evidentemente non se l'è fatta giusta. Ma uno che si cambia le leggi elettorali e le costituzioni per se stesso e non per i cittadini è uno pericoloso. Noi chiederemo al Presidente della Repubblica elezioni il prima possibile. Renzi Terri, Renzi Quater con dei pezzettini di altri transfughi. No, per fare la legge elettorale, perché sennò. Ma qua c'è una consulta che dovrebbe pronunciarsi, esatto, da mesi. Che dovrebbe pronunciarsi. Ma ha detto che lo fa dopo il referendum. Dopo il referendum la legge lo elettorale farà. Si può fare, non si può fare, è costituzionale, non è costituzionale. Ma vi pare normale che una corte costituzionale da mesi? No, per niente. Da mesi debba dirci se questa legge va bene o non va bene, ce lo dicesse. No, ma è la sintesi dell'abdicazione della politica, che la Corte Costituzionale da anni, ogni volta, ogni riforma vi metta in scacco in questo modo. Perfetto, ma perché non lo fa? Ce lo diciamo molto chiaramente, non perché non lo sanno, per non disturbare Renzi, perché se si pronunciano in maniera sbagliata nel PD perdono pezzi, c'è l'Italia in sospeso per non disturbare Renzi, il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena che riguarda migliaia di risparmiatori è in sospeso fino al referendum, la legge elettorale è in sospeso fino al referendum, la manovra economica non ha niente. No, la di stanno scritto. Riscrivendo, quella la stanno riscrivendo. La stanno scrivendo, ma voi lo sapete perfettamente, è vero che non sarà quella definitiva che verrà fuori in tutti i suoi effetti concreti solo dopo. Ma lì si sa che si approva sempre sotto Natale. Di questo signore. Si approva sempre sotto Natale. Ma senta, Berlusconi, lei l'ha visto un paio di giorni fa. Perché questo è il dibattito nel centrodestra. Berlusconi, secondo lei, è per il no deciso oppure tenten? Lui ci ha strassicurato che la riforma più la legge più non lo convince, perché complica il processo legislativo, aumenta i costi. Poi ieri sono usciti i dati sull'informazione televisiva e il telegiornale che ha dato più spazio al sì col 75% è il TG4, che mi sembra cosa bizzarra, e ogni tanto guardando il TG5 mi sembra di guardare il TG1. Ma lei lo sa che però il capo azienda Confalonieri lo ha detto, come appunto, lo deve dire? È più chiaro di così. Confalonieri per il no, sì. No, ma per carità di Dio, l'unico ragionamento è che siccome la disinformazione Rai è evidente, è squilibrata. Ieri sono usciti i dati appunto dell'autority delle telecomunicazioni, c'è la presenza di Renzi e del governo di oltre un'ora al giorno su tutte le reti televisive italiane pubbliche e private, sono dati che penso neanche a Cuba avessero, e quindi almeno ci fosse un'informazione equilibrata, però mi sembra sincero nel fatto che abbia riconosciuto che la riforma non porta nessun vantaggio ai cittadini. Però le altri. Sembra sincero, poi lei accende il canale 5 e TG4 e rimane un po' perplesso. Questi sono i dati. Questi sono i dati dell'AGCOM, non di Salvini, di cui prendo atto, però ripeto, non sto qua a fare il piaggina, sì. La Rai, ormai manca che Renzi compaia la domenica sportiva, le previsioni del tempo, entri a casa del grande fratello e aspetti, manca ancora qualche settimana prima del 4 dicembre, aspetti. Potremmo, non so se sarà in campo sabato sera per Milan-Juve, però potremmo vedere anche questo. Senta, noi tra poco parleremo di Libia, approfondiremo. Ha letto sui giornali che dalla Libia chiedono cooperazione, chiamiamola così, che poi vuol dire materiale, motoscafi, auto, PC, computer. Come facemmo in passato quando eravamo al governo, aiutando alcuni paesi nordafricani. Avendolo fatto anche voi. Sì. Ovviamente sì, è l'unico modo per intervenire efficacemente sul tema invasione clandestina. Il primo paese di esportazione di cosiddette risorse è la Nigeria, in quanto a sbarchi e richieste di asilo politico in Italia, solo il 5% del territorio nigeriano è occupato dai terroristi di Boko Haram. La Nigeria è uno dei paesi più ricchi al mondo di materie prime, di possibilità, di futuro. Sarà il secondo paese più popoloso al mondo entro 30 anni dopo la Cina. Quindi un governo normale, invece di andare a cena negli Stati Uniti, va a lavorare in Nigeria, magari avrà meno televisioni dietro, però lavora e dialoga col governo nigeriano per bloccare le centinaia di migliaia di sbarchi che l'Italia e gli italiani non si possono più permettere. Quindi mi auguro che si collabori con la Libia, ma non solo con la Libia, con tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo per fermare un esodo e che ha visto migliaia di morti, perché quelli che dicono accogliamoli li fanno partire, poi hanno una fossa comune con 4.000 morti sul fondo del Mar Mediterraneo solo quest'anno, e poi soprattutto stanno creando situazioni insostenibili in giro per l'Italia. Ieri, pensate, a proposito di proprietà privata, Radio 24, diritto all'obiezione di coscienza, questo proprietario di un albergo di Verona che si è sentito chiamare dalla prefettura dicendo: sai cosa c'è? Fra 15 giorni ti requisiamo il tuo albergo 4 stelle, fai in fretta a smaltire i clienti. Ma c'è ancora il diritto alla proprietà privata? Fai in fretta a smaltire i clienti perché abbiamo bisogno di sistemarci alcune centinaia di immigrati. Ma neanche su scherzi a parte fanno delle robe del genere. Insomma, quindi cooperazione ci vuole. Salvini, sì, noi domani mattina in Libia, ma non solo in Libia, ripeto, in Tunisia, in Marocco e in Nigeria soprattutto. Mi domando cosa aspetti il governo italiano ad andare in Nigeria. Noi ci fermiamo qui. Io ieri ho fatto arrabbiare un po' i colleghi nostri di Radio Padania, lo sa Salvini, gliel'hanno detto. Che è successo? No, perché avete venduto le frequenze. Ha detto la Radio Padania doveva scomparire. Prendevamo un po' in giro il fatto che Radio Padania le frequenze le ha vendute al calabrese su Raci. No, non le frequenze, ha venduto, mi sono informato perché anch'io non lo sapevo. Ha venduto la nazionale per trasmettere tutta Italia che non usava, evidentemente, a RTL, che invece la userà, per loro, hanno tanti soldi, il cui proprietario partì dalla Calabria e vive a Bergamo da anni. ci sono tanti calabresi per bene che hanno fatto successo, siciliani, pugliesi, quindi sicuramente questo sì, hanno preso in giro. Mi interessa che la radio esista, trasmetta, non cambi le frequenze e la proprietà sia sempre la stessa. Benissimo, va bene, la ringraziamo ovviamente, speriamo in Milano. Lei lo sa che Donnarumma se ne va, ecco, è vero, lo sa che se questa ne va, è la novità proprio. Accettiamo scommesse. Ma sì, ci sarebbe la vera crisi del centro-destra. Se ne va. Caro Salvini, una volta che ne abbiamo trovato uno buono, ma questo è il punto, bisogna venderlo per fare cassa. Vabbè, pur condividendo la fede calcistica con Salvini, mi sa che invece Donnarumma se ne vendono, esatto. Va bene Salvini, grazie ovviamente. Dopo smentisco queste voci. Facciamo una scommessa pubblica, ci dia pure dei gufi, il colpo di zampa. Va bene, grazie. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Tra l'altro, siamo qui alle 8:41 minuti, eccoci qui. Vogliamo riannodare i fili anche con quella vicenda di Catania, caro Oscar. Senti, però non mandare in onda, questa che mi ha traumatizzato la rassegna stampa. Quando ho sentito lo spot che tu turbi le MILF, Io turbo le mie. Ma sì, lo spot del ragazzino che dice che la Alessandro, giornalista preferita da mia mamma. Mia mamma. Ma no, fa fremere, non ha detto fa vibrare mia mamma. Giornalista preferito di fa mia venire, mamma. Fa venire, ma no, fa una roba. Ma cosa dici? Insomma, dai. Oh, ma insomma, no. Moglie Milan, intervieni, questo qua. Ma intervieni, guarda che il Mattarello arrivano, è di Frassi, no, a casa. Esatto. Qui arrivano SMS delle MILF, quindi insomma, io non posso permettermi, sennò mia moglie mi impicca perché dice anche tu no io no, noi no si sa, ecco. Intanto ci ha chiamato Caterina da Pisa. Buongiorno, no. Caterina. No Caterina, buongiorno Caterina. Buongiorno a voi. Che ci dice sul tema di Catania, immagino, di cui abbiamo parlato? Sì, ovviamente. Sì. Mi sembra che, come spesso accade qui in Italia, ci sono delle leggi ipocrite. Per far contenti il Vaticano si dice, ma possono anche avere i medici il diritto di non fare l'aborto, va bene? Poi gli stessi medici magari nelle cliniche private lo fanno. Vabbè, questo... Quindi la ipocrisia imperversa. Questa sarebbe proprio un'ipocrisia doppia. Sì, ovviamente, lo è. Anche perché quando uno vuole fare il concorso, perché nelle strutture pubbliche si entra per concorso, se vuole fare il ginecologo, dovrebbe dichiarare subito. Dovrebbe essere una cosa per garantire il diritto alle donne di poter decidere sul proprio corpo. Mm-hmm. L'obiezione di coscienza che è in palese contrasto con questo diritto, quindi sono due leggi. Una in contrasto all'altra, se uno vuole fare ginecologo pubblico, non potrebbe aver diritto di essere obiettore di questo. Però, Caterina... può fare benissimo se vuole, otorinolaringoiata, a questo punto non avrà mai questi problemi. Però Caterina, io su questo contesto, nel senso che se c'è una legge, sono due leggi sicuramente contrastanti, la 194 e il diritto all'obiezione di coscienza, se però sono leggi entrambe, è giusto che entrambe vengano tutelate e che possano essere rispettate, e quindi io sono anche, se c'è la legge per l'obiezione di coscienza, la possibilità che un ginecologo possa usufruirne. Diverso è, come dicevi Oscar, un ospedale in cui poi gli equilibri sono così squilibrati per cui uno entra e trova solo obiettori, e lì è negato un diritto alla donna. Contemperare i tuoi diritti, come dici tu Alessandro, ha come unica soluzione possibile quella di una offerta organizzativa dei servizi che però tassativamente impedisca l'esistenza di ospedali in cui tutta l'ostetricia e la ginecologia sono fatte solo da obiettori. Cioè ci deve essere un equilibrio tra le due componenti, tale che nella rotazione dei turni sempre deve essere garantito personale che non è obiettore. Attenzione, loro a Catania dicono: noi comunque ci avvaliamo di personale esterno se arriva una donna e io invece dice voglio... No, non voglio cose esterne, più soldi eccetera. È nell'offerta pubblica che la 194 va garantita, e questo non avviene nel tempo in maniera crescente in un numero sempre più vasto di aree del nostro paese. E la nostra ascoltatrice pone un altro tema fondato quando sottolinea che, guarda caso, in quelle regioni naturalmente il numero di chi per i casi di interruzione di gravidanza previsti e garantiti dalla 194 prospera il privato, cioè i soldi del portafoglio, perché sì, certo, la gente non ha alternative. Poi pensare che operino nel privato alcuni che pubblicamente si dicono obiettori, è inevitabile che sia così. In quelle aree del paese la gente deve andare a fare le cose in privato. C'è Marcello che ci chiama da Ravenna, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Le due ottime, complimenti per la radio. Dunque io intervino per dire una cosa. Intanto dalla cronaca ho capito che il medico in questione non era un obiettore. Noi non stiamo parlando della vicenda. A parte che sono tutti obiettori lì, quindi è un po' difficile essendo tutti obiettori che non sia obiettore. Lo ha detto l'ospedale, sono tutti obiettori. Ma meno male, perché nel senso che una legge che va a legalizzare l'assassino, l'omicidio, diciamo, è una legge in sé assurda. Ah, vabbè. Ecco, quindi... cioè lei contesta la 194. Ringraziamo il buon Dio che fa sì che i medici, che hanno fatto anche giuramento da questo punto di vista, di salvaguardare la vita, siano tutti obiettori. Spero che siano un giorno tutti obiettori. I casi in cui l'aborto è qualcosa di sancito in quel momento a livello medico, perché altrimenti non so cosa. cosa ci accadere, no, ma moriranno entrambi. Marcello, però mi scusi, ma lei dovrebbe fare una battaglia per cancellare la legge 194. Siccome invece è stata fatta una battaglia e c'è, se viviamo in uno stato di diritto, io gradirei che in uno stato di diritto vengano rispettate le leggi che ci sono. Però Marcello invece dice grazie a Dio sono tutti obiettori, e spera che lo siano tutti. Che dobbiamo fare, Oscar? Niente. Io non, cioè, la cosa che voglio evitare è riaccendere la polemica con chi dice che chi è un assassino, si risolve a un aborto è un assassino, una donna assassina. Ecco, siccome mi pare di tornare indietro tanti anni, però se ciò che c'è chi la pensa così, provoca apposta usando questi termini, si tenga le sue idee. Va bene. La ringraziamo Marcello. Vogliamo salutare un inviato della stampa, Domenico Quirico, per riannodare ai fili anche qui di quello che sta succedendo in Libia. Domenico Quirico, inviato buongiorno. Della stampa, buongiorno e ben ritrovato. Abbiamo letto sui giornali che con la Libia dovremmo fare un lavoro di cooperazione, che chiedono soldi, chiedono... Intanto quale Libia? L'abbiamo detto tante volte. Chi ce lo chiede? 48 ore prima che c'è stato un tentativo per sbarazzarsi di Sarraj, loro stessi hanno definito un tentativo di colpo di Stato. A chi gli daremmo questi soldi? Li daremmo a loro, cioè loro li chiedono, ma faremmo bene, Quirico? Ma io francamente mi sembrano discorsi metafisici quelli sulla Libia, basati su delle asserzioni che c'è un governo legittimo, riconosciuto da tutti, che sta lavorando come castori per ricostruire il paese. Io francamente questo non lo vedo, non lo so. Una delle cose che mi ha sempre incuriosito fare, non sono mai riuscito a fare perché di economia non mi occupo, non ne so nulla, quindi preferisco evitare di dire stupidaggini, e fare un servizio per stabilire come si prendono gli appalti in Libia. Sono un sacco di imprese italiane o non italiane che lavorano lì. Ecco, quello che mi ha sempre incuriosito è capire come è possibile vincere un appalto in Libia. A chi si presenta il capitolato di questa cosa? Chi è che decide che un'offerta è migliore dell'altra? Quanto si deve pagare, immagino, perché venga scelto il proprio progetto rispetto ad un altro? Soprattutto chi paga? Cioè, come fa uno a essere sicuro che ci sia un'autorità che garantisce poi i pagamenti, il contenzioso eventuale per i lavori effettuati o non effettuati? Cioè, forse facendo un servizio di quel genere si capisce cos'è la confusione libica e sì. Chi, a cosa non corrisponde, al nulla a cui corrispondono i termini che noi utilizziamo, la polizia libica. Polizia libica di chi? Cioè di qual è stato? Che risponde a che cosa? A quali leggi? Sulla base di quali principi? Del governo di Tobruk, certo. Di Tripoli, della banda istituzionale? Io la ringrazio per la chiarezza con cui sta rispondendo, perché questo ci aiuta a spiegare agli ascoltatori, a fare la tara di questi annunci politici. Salvini prima ci ha detto sì, diamo gli aiuti. Io mi aspettavo magari una risposta che dice ma a chi li diamo? Invece no, perché l'interesse di una parte politica può essere dire no, ma noi ci battiamo contro altri per un governo legittimo. Alla gente bisogna dire non c'è un governo che eserciti l'autorità in Libia, che lo dica lei con questa chiarezza. Io la ringrazio, perché altrimenti passiamo noi per matti. Oppure ci sono talmente tanti governi, talmente tanti interlocutori, bande, fazioni, ecco, più che governi, poi fazioni. C'è anche l'elemento delle tribù in Libia, tutto quello che volete voi. Però ecco, forse è meglio dirlo che è così. Sì, non è che ho l'impressione che il fatto che si continui a insistere con questa finzione sul fatto che esiste un governo su cui si può rivolgere, che ha un'autorità, che controlla un territorio, che è in grado di tenere patti, di firmare accordi, di ricevere denaro oppure di ricevere aiuti che sono militari piuttosto che di altro genere, nasce dalla necessità, come dire, abbastanza disperata di dimostrare che tutto quello che la politica è stata fatta in quella zona del mondo non era totalmente fallimentare e sbagliata. Perché nel momento in cui diciamo guardate che lì c'è la frantumazione di qualsiasi tipo di logica, di ordine, significa ammettere gli errori, diciamo allora che avete fatto in tutto questo periodo. Quindi sono questioni di anni, non di mesi o di settimane o di giorni. Tra l'altro, Quirico, vogliamo anche ricordare che lì, a proposito di appalti, abbiamo anche due italiani di cui non si parla. Evidentemente nella stampa italiana non si parla, perché evidentemente è bene così, ecco, perché no, capito, certo, traduciamo. Perché il Viminale ci ha pressato per dire non parlate. E si vuole sperare che ci siano delle trattative in corso. Certamente, immagino che ci saranno e spero che si concludano rapidamente, però è un po' il discorso che faceva all'inizio, quando si dice c'è un'impresa che lavora nel posto is della Libia e vorrei capire perché lì sulla base di quali accordi, perché non gli è stato impedito di andarci, visto che la situazione è quella che stiamo raccontando, non è una specie di paradiso terrestre del paese in ricostruzione che invece qualcuno vuole far credere esista. Insomma, tutti i nodi poi si riconducono a questa domanda iniziale, cioè raccontateci che cos'è la Libia, fate una politica che tenga conto di cos'è diventata la Libia, non una politica o una non politica basata su una finzione. Questo non sembra. Le posso fare una domanda che è proprio collegata ed è coerente a quello che ci ha appena detto, ed è coerente con il fatto che a me ha posto un interrogativo come giornalista vedere autorità adesso giudiziarie italiane, le procure che iniziano a indagare i capi delle aziende che hanno continuano a lavorare lì con uomini propri come responsabili delle morti dei loro che lavorano lì. Cioè, noi viviamo una singolare situazione nella quale le autorità italiane dicono alle società italiane private che lavorano lì: dovete darci la lista di tutti e non dovreste farlo. Poi contemporaneamente dicono: se lo fate dovete risponderne voi. E terzo sviluppo: se succede qualcosa ai vostri, la colpa è vostra. A me sembrano sommate tre ipocrisie insieme, sì. No? Tra ipocrisie che fanno una follia però operativa, perché poi alla fine quelli che pagano sono i poveretti che vanno a lavorare lì e non tutte le altre persone a cui lei ha fatto riferimento. Cioè, in prima linea non è che ci sono, come dire, amministratori, l'amministratore delegato dell'azienda che in Libia non ci metterà mai piede neanche per sbaglio, piuttosto che il funzionario che gli ha detto vabbè vai, perché comunque noi siamo in accordo con il gruppo XYZ, ma i poverini che vanno lì perché hanno bisogno di soldi, perché non hanno altre possibilità, eccetera eccetera. Insomma, alla fine il problema è di quelli che vengono sequestrati o anche di quelli che non tornano indietro, perché qualcuno, ahimè, sì, anche recentemente è morto. Il problema in questo caos permane. Noi ringraziamo Domenico Quirico, inviato della Stampa. Mi dispiace Giacomo, da Livorno non c'è spazio, ma se vuole ci teniamo come sempre il numero di telefono e lunedì recupereremo anche perché questa vicenda dell'obiezione di coscienza magari andrà avanti. Sì, ci torneremo. Vediamo se il Quirinale in questo fine settimana si sveglia e si fa dare il testo alla manovra scritta oppure no. Vabbè, loro sono lì, però adesso non è che andiamo andare a bussare. Ma dai, Quirinale, è come l'UNESCO, condivido la lettera della presidente della comunità ebraica oggi sulla Stampa che dice: Quirinale, ma no, ci sei, non ci sei? Cosa fai, caro Mattarella? Dove sei? Su. Allora, dai, oggi pomeriggio alle 16:30 torni Oscar, domani anche, e lunedì siamo qua, speriamo di commentare un trionfo del Milan, se succederà sicuramente. Sicuramente. Perché avere dubbi su questo? Sicuramente. Ciao.